America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ieri abbiamo avuto un super martedì, avete sentito gli applausi, li abbiamo registrati da uno dei comizi della vittoria elettorale di Blanche Lincoln dell'Arkansas. È stato un martedì delle donne, si è votato in 12 stati, elezioni plurime naturalmente, anche elezioni su proposte legislative, ma il risultato centrale è che una gran quantità di donne hanno vinto in California. Meg Whitman e la Carly Fiorina, la prima per la poltrona di governatore, la seconda per il seggio senatoriale, sono oltretutto due executive dell'high-tech, ciascuna ha fatto carriera in grandissime corporation, la prima Meg Whitman a eBay, la seconda Carly Fiorina alla Hewlett Packard. Altra risposta importante dalla California, la Proposition 14, una proposta di legge rivoluzionaria che avrà valore soltanto in California locale, ma sappiamo che la California è un po' la nuova frontiera per tutta l'America. Questa proposta prevede di eliminare il confronto nelle primarie fra i partiti, dunque non ci sarà più una corsa di repubblicani o una corsa di democratici come abbiamo avuto per esempio nelle elezioni di ieri, ma ci sarà un'unica primaria in cui tutti i concorrenti di vari partiti politici e dunque anche indipendenti e dunque persone che non sono necessariamente iscritti ai partiti ma sono semplicemente iscritte alle liste elettorali potranno presentarsi in corsa. Solo i primi due vinceranno e potrebbero essere questi primi due dello stesso colore politico. Dunque una vera e propria rivoluzione perché si privilegia l'individuo, la persona e si va contro la macchina del partito. Ma visto che stiamo parlando di California, restiamo in California e sentiamo Meg Whitman. We've got to cut taxes. Meg Whitman che chiede di ridurre le tasse, un cavallo di battaglia non complicato sul piano politico. Meg Whitman, ex amministratore delegato della eBay, il sito internet che fa le aste elettroniche, è diventata miliardaria e ha speso ben 71 milioni di dollari nella sua campagna elettorale. È legata a una gran quantità di personaggi, ad esempio è legata al direttore di Time Magazine, Rick Stengel. Ebbene, la Whitman ha vinto con una forte maggioranza contro il suo concorrente diretto in campo repubblicano, addirittura il 63%, si scontrerà a novembre contro Jerry Brown, un nome storico, fu pensate addirittura governatore dello Stato già negli anni 70, ha 72 anni, è un ex figlio dei fiori. Insomma, la California guarda in avanti ma sta pensando all'indietro, una cosa questa che mi lascia un po' perplesso e che in qualche modo giustifica questo sentimento di malessere dei californiani, i quali danno dei voti pessimi a tutti i loro politici, a partire anche dal governatore in carica Schwarzenegger, e gli danno 20, 25, 24% di indice di gradimento. Ecco, forse Jerry Brown riesce a conquistare il 33%. Perché? Bah, perché in fondo non hanno ispirato come avrebbero dovuto, come i californiani si aspettavano. Sarà una lotta durissima, sarà il futuro di una donna high tech contro il passato di un figlio dei fiori. Il vantaggio di Brown, beh, quello di essere in uno stato democratico, di essere già molto conosciuto, soprattutto potrà contare sull'appoggio del presidente Barack Obama e dell'ex presidente Bill Clinton. Altra corsa importante, sempre in California, quella che vede schierata Carly Fiorina contro Barbara Boxer. Sentiamo Carly Fiorina. Because the federal government wouldn't do its job and secure the border. Carly Fiorina, amministratore delegato di Hewlett Packard, ha speso 12 milioni di dollari della sua fortuna personale, ha guidato questa grandissima azienda e si vende dunque come executive, come una donna che dal suo seggio senatoriale potrà aiutare la California a uscire da questo disavanzo di 19 miliardi di dollari che ha accumulato. Il problema è che la Carly Fiorina non ha fatto così bene alla Hewlett Packard, ha contribuito al ridimensionamento, licenziamento o esportazione di posti di lavoro per addirittura 30.000 persone e questo le sarà ricordato naturalmente durante lo scontro elettorale di novembre. Non solo, fu a sua volta licenziata e se ne andò con un golden parachute, con un paracadute dorato che le portò una gran quantità di quattrini. Il suo concorrente diretto a novembre sarà Barbara Boxer, uno dei senatori anziani a Washington e naturalmente dello Stato. E la Boxer attaccherà la Fiorina soprattutto su questioni come immigrazione. Abbiamo sentito, mentre parlava prima, appunto, che rivendicava il diritto di poter combattere per limitare l'immigrazione nello Stato, ma è soprattutto una donna che ha una posizione contro l'aborto, protegge i diritti alle armi, e la gara sarà durissima. La Barbara Boxer in qualche modo potrebbe essere favorita, con una sorpresa: Carli Fiorina ha potuto risalire la china e affermarsi grazie all'appoggio di Sarah Palin, che in queste elezioni, di nuovo un'altra donna, è emersa un po' come il kingmaker. In altre due corse importanti, infatti, il suo appoggio è stato determinante. And that message was that the vote of this senator is not for sale and neither is the vote of the people of Arkansas. Parliamo di una democratica. Blanche Lincoln era in gravissime difficoltà, senatore in uscita, in teoria dovrà confrontarsi a novembre. Ebbene, ha smentito la tesi secondo cui coloro che già erano stati eletti a Washington quest'anno si sarebbero trovati in difficoltà. È riuscita a prevalere in una elezione difficilissima all'interno del Partito Democratico contro Bill Halter, e a questo punto se la dovrà vedere appunto con un concorrente repubblicano. Dovrebbe farcela, e 135 anni che il seggio dell'Arkansas al Senato va a un democratico. Il problema è che si stanno mobilitando appunto i movimenti dei Tea Parties. È successo in Nevada, dove Sharon Angle, proprio una militante dei Tea Party, si è affermata e si dovrà scontrare contro Harry Reid. E il capo della maggioranza al Senato è stato uno degli artefici del piano per la riforma sanitaria. Infine, grande sorpresa, Nikki Haley in South Carolina, nella Carolina del Sud, è riuscita ad ottenere la nomination per la poltrona di governatore dello Stato. Anche la Haley è appoggiata da Sarah Palin. La sua è una storia piccante: fu attaccata durante le elezioni per certi scandali sessuali, sembrava avere relazioni plurime con uomini che rivendicavano di aver avuto così delle scappatelle con lei. Lei è sposata, madre di due figli, ha sempre smentito, e comunque alla fine si è affermato. Una serie di elezioni dunque in nome delle donne. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera, come abbiamo visto anche da queste elezioni. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vorrei dedicarla a Alanis Morissette. Si è sposata dopo solo 7 mesi di fidanzamento pochi giorni fa con il rapper Suley, all'anagrafe Mario Treadway, e dunque dedichiamo a lei una sua bellissima canzone, Everything. You see everything. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.